Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, buonasera da Sebastiano Barisoni, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Seconda parte del nostro viaggio nel neoprotezionismo, quello che sembra prendere piede in tutti i paesi, dentro l'Europa, fuori dall'Europa, nessuno escluso. Questa volta ci occuperemo non del neoprotezionismo nella sua forma classica, ne abbiamo parlato ieri, ossia dazi, barriere, la Francia che si becca anche le reprimende di Bruxelles perché chiede ai produttori d'auto di comprare solo componentistica francese se vogliono ricevere aiuti di Stato, ma del protezionismo che in alcuni casi assume dei connotati xenofobi, nazionalisti, non lo so, quello sugli esseri umani, sui cervelli, sulle menti e anche sulle braccia. Il caso più noto è quello britannico, lo sappiamo, la raffineria di Lindsay, ormai l'accordo è raggiunto, ma non c'è solo quello, ve ne racconteremo degli altri, dall'America, o anzi dall'americana Microsoft, in cui alcuni senatori repubblicani chiedono che ad essere licenziati siano solo i dipendenti Microsoft non americani, al caso delle banche tedesche che dicono che licenzieranno per prima nelle filiali straniere, e non a casa propria. Insomma, come ci si gira, torna anche una selezione sulla base del passaporto, sulla base della razza, delle volte e dell'appartenenza comunque a un paese, a una cultura e non sul merito. La domanda che ci poniamo è: non sarebbe invece proprio in un momento di crisi il caso di puntare sul merito degli uomini e non sul loro passaporto? Ne parleremo tra qualche minuto, anche perché il fenomeno, come leggeremo da alcuni casi, continua a registrare nuove adesioni. Per quello che riguarda la cronaca della finanza, che sta crollando a Wall Street Bank of America, ai minimi dal 1984, è arrivata a perdere il 20% oggi sulla borsa americana. Il motivo è che si teme che non ce la possa fare ad arrivare e a sopravvivere nemmeno dopo l'ultimo pacchetto di aiuti da parte del governo americano, che ha staccato un assegno da 138 miliardi di dollari per Bank of America. La banca comunque ha ridotto la sua capitalizzazione, è passata da 220 a 33 miliardi e nel frattempo ha accumulato perdite per 40 miliardi come conseguenza degli investimenti in prodotti di carta, e anche si è comprata, o meglio, il governo americano le ha fatto comprare Merrill Lynch, dandole anche dei soldi per questa acquisizione. Al di là di Bank of America, invece, oggi le borse sono tranquille. Parigi meno 0,4, Francoforte più 0,1, Londra meno 0,4, l'America più 0,3 sui due indici, anzi il Nasdaq guadagna l'1,1, Piazza Affari meno 0,3 sull'S&P MIB, meno 0,1 sul MIBTEL. Giornata quindi di riflessione oggi, ammesso che ci sia da riflettere in borsa. Fondiaria meno 3,5, Monte dei Paschi meno 2,5, Fastweb meno 1,9, Buzzi Unice meno 1,6 come Intesa, 1,5 lo perdono le generali, l'1,4 il calo di UbiBanca, l'1,3 quello di Fiat e Telecom Italia, 1% lo perde Unicredito. Molto bene invece in pregiro, più 5,1 Parmalat, più 3,7 Tenaris, più 3,3 Geox, più 2,7 Mondadori, più 2%, Popolare di Milano più 2 come Terna, Atlantia e Saipem più 1,8, Autogrill e A2A più 1,7%. Euro debole a 1,28 sul dollaro e a 87 pence sulla sterlina. Parleremo anche della decisione della Banca Centrale Europea di lasciare i tassi invariati, facendo capire però che potrebbero ulteriormente calare dal livello del 2%. E commenteremo in questo modo anche la decisione della Banca d'Inghilterra di tagliare di un altro mezzo punto il costo del denaro, che già era il più basso da quando esisteva la banca, da quando esiste la Banca d'Inghilterra, dal XVII secolo, ma adesso è ulteriormente, ha battuto un record già battuto all'1%, in una giornata in cui però in Gran Bretagna per la prima volta da quasi 2 anni sono tornati a crescere di poco, ma i prezzi delle abitazioni. E allora, dopo aver ricordato che il numero per i vostri sms è 349-238-6666, le notizie in breve. Ancora sulle notizie. Vedo che già alcuni di voi scrivono sul protezionismo, però insomma, adesso ci arriviamo. Al di là di Bank of America e della Banca Centrale Europea, che lasciano i tassi invariati al 2%, e Trichet ha detto non è la soglia minima, guardiamo a marzo. Sempre la Banca Centrale Europea, per voce del suo presidente Trichet, ha anche aggiunto l'ipotesi tassi zero al momento non è un'ipotesi appropriata, i tassi a livello zero non sarebbero appropriati, il che non vuol dire che venga esclusa. Sentiamo. At today's meeting, the Governing Council decided to leave the key ECB interest rates unchanged. Alla riunione odierna abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. I dati sull'economia confermano per l'area euro e i suoi principali partner commerciali un prolungato e significativo rallentamento economico. Continuiamo ad attenderci un livello di inflazione in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi nel medio termine. Continueremo a mantenere le attese di inflazione ancorate al nostro obiettivo, ossia inferiore ma vicino al 2% nel medio termine. Tassi di interesse allo 0% non sono qualcosa che al momento consideriamo appropriato. Per ciò che riguarda l'uso di misure non standard, attualmente ci troviamo in questo contesto. Ho già detto che non escludiamo nulla, non siamo prevenuti, e non escludiamo nulla circa il ricorso a misure non standard. La soglia del 2% per i tassi non è la soglia minima. Esamineremo la situazione al prossimo Consiglio a marzo. Non escludo che potremo tagliare il costo del denaro al prossimo appuntamento, ma analizzeremo cosa fare prendendo in considerazione tutti gli elementi a disposizione. E sempre Trichet ha anche confermato che nell'area euro è in atto un prolungato rallentamento della crescita, che nel quarto trimestre sarà molto negativa e che i prezzi però del petrolio potrebbero mettere sotto pressione l'inflazione nei prossimi mesi. Oddio, dai dati che abbiamo così non sembra, però sappiamo che l'inflazione è al centro dell'interesse, è quasi un'ossessione per la Banca Centrale Europea. Nel frattempo si diceva di alcune notizie che arrivano dall'Inghilterra, il taglio di mezzo punto percentuale all'1% e quindi il minimo dal 1694, quando fu fondata dal re William III la Banca d'Inghilterra. Per la prima volta però i prezzi delle case hanno registrato a gennaio un aumento più 1,9%, vengono da cali a due cifre. Però è interessante come notizia, anche perché nel frattempo anche dall'America sono arrivate notizie in chiaroscuro. Perché? Perché se da un lato i sussidi di disoccupazione sono arrivati a un nuovo record a 4.780.000, è il livello più alto di sussidi e disoccupati in America da quando esiste la statistica. Questo più di tante analisi ci fa capire la gravità di questa crisi. Dal 1967 che in America non venivano distribuiti 4.788.000 sussidi di disoccupazione, che vuol dire che almeno 4.800.000 persone si dichiarano disoccupate, la produttività è aumentata meglio delle attese, di ogni attesa, più 3,2%, mentre peggio delle attese gli ordinativi all'industria, meno 4% a dicembre. Nel frattempo la Ford sta trattando con la cinese Geely per cedere il marchio europeo Volvo, cioè la Volvo potrebbe parlare cinese a questo punto. La Volvo che ha avuto a gennaio un meno 64% nelle vendite, la Ford ha avuto un meno 40%, e seguiremo questa trattativa perché vorremmo capire dove sfocerà. Sempre per quello che è il nostro diario della crisi, in India, a causa della crisi mondiale, 500.000 persone hanno perso il posto di lavoro tra ottobre e dicembre, quindi in due mesi. In Germania Deutsche Bank porta a casa il primo rosso della sua storia, però versa il dividendo, distribuisce infatti 50 centesimi ad azione ai suoi azionisti, mentre la Visa, e qui le notizie sono più contrastanti, perché la Visa ieri ha visto gli utili salire più 35% grazie all'utilizzo delle carte di credito e di debito al di fuori degli Stati Uniti, per cui primo trimestre con una crescita importante, 35% a 574 milioni di dollari. Invece Mastercard ha chiuso l'ultimo trimestre del 2008 con un calo del 21% negli utili, che sono scesi da 304 milioni a 239. L'Istat, passiamo all'Italia. L'inflazione in Italia è scesa a gennaio all'1,6%, il livello più basso dall'agosto del 2007, grazie soprattutto ai prezzi dell'energia, gasolio meno 17% rispetto a un anno prima, benzina verde meno 18%, bolletta elettrica più in chiaroscuro meno 3 sul mese, più 4 sull'anno. Il pane anche è rimasto fermo, 2,7%, la pasta è continuata a salire, calano per esempio le spese alberghi, i costi e i prezzi degli alberghi, restano invece in crescita quelli dei ristoranti, ne parleremo nella seconda ora. E poi tra l'altro è cambiato anche il paniere dell'Istat, sono entrate la chiavetta USB, i film in DVD, la pasta base per le pizze, il mais in confezione e poi anche il notebook, ossia il portatile. Mentre per quello che riguarda i soldi da reperire per il nuovo pacchetto di aiuti, quello che domani verrà discusso nel Consiglio dei Ministri, quello che riguarderà le auto ma anche gli elettrodomestici e il mobilio arredo, il governo ha chiesto, lo sappiamo, 2 miliardi e 700 milioni di euro alle regioni che utilizzano questi soldi per i corsi di formazione. Il governo li vuole stornare, sono fondi europei, li vuole stornare sugli ammortizzatori sociali, sulla cassa integrazione. Ci sono problemi gravi e rilevanti, ha detto il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani su questo tema. Nel frattempo segnaliamo che la Fondazione Cariplo ha donato 1 milione di euro al fondo Famiglia Lavoro che l'arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, ha lanciato la notte di Natale per aiutare le famiglie più bisognose a far fronte alla crisi. E allora, primo tema di questa puntata, il protezionismo delle merci, lo abbiamo affrontato ieri, oggi affrontiamo il protezionismo che rischia delle volte di sconfinare nel razzismo vero e proprio, nel xenofobia, cioè avversione verso lo straniero, il protezionismo dei cervelli. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta me chi don fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll. Eh sì, tanti hanno voluto e vorrebbero fare gli americani, ma sono gli americani delle volte che non glielo lasciano fare. Perché? Perché i casi ormai della politica licenziate prima gli stranieri, America's first o Britain first, in questo caso i primi a essere licenziati dovrebbero essere i lavoratori stranieri, ormai prende piede. Un gruppo di politici americani, per lo più repubblicani, ha chiesto alle aziende a stelle e strisce, non solo a Microsoft, e a tutte quelle che stanno ridimensionando gli occupati, di licenziare prima i dipendenti con passaporto non americano, anche se regolarmente assunti. Questa richiesta riguarderebbe anche i professionisti di alto livello, cioè ingegneri o gestori, manager della finanza e dell'informatica. Non a caso la crociata a difesa dei lavoratori americani è partita dalla Microsoft, che ha annunciato 5.000 esuberi, 5.000 licenziamenti nei prossimi 18 mesi. E c'è qualcun altro che fa l'americano, le banche tedesche infatti licenziano, ma per ora solo all'estero. I sindacati tedeschi hanno infatti ottenuto che le banche nazionali mantengano al loro posto i dipendenti almeno fino al 2011, una vicenda che tocca anche l'Italia. A Milano, per esempio, verrà chiusa la filiale di Dresdner Bank, lasciando a casa 89 dipendenti. E poi in Gran Bretagna, oltre al caso ormai famoso della raffineria di Lindsay, dove gli operai inglesi hanno ottenuto a questo punto 102 posti per lavoratori inglesi, in aggiunta a quelli già utilizzati per i dipendenti portoghesi e italiani, i sindacati stanno valutando se organizzare una grande marcia su Londra, che dovrebbe chiamarsi Britain First, cioè prima i britannici. Torniamo sul tema di pancia e di viscere a cui abbiamo fatto riferimento. Il ministro dell'immigrazione Phil Wallace ha proposto di restringere il numero di stranieri ammessi nelle università britanniche per offrire più possibilità di lavoro agli studenti britannici. Americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok. E sempre dall'America si cerca anche di avere visti più brevi per i lavoratori, in modo da rendere in qualche modo, se mi passa del termine, più difficile la loro integrazione nel mercato del lavoro. Devo dire che anche da noi, insomma, c'è qualcuno, penso al capogruppo alla Camera della Lega, Roberto Cota, che ha detto: gli operai inglesi fanno ragione, anche noi dovremmo fare la stessa cosa, prima difendere i posti di lavoro degli italiani. Dottor Pierluigi Celli, direttore generale della LUIS, buonasera. Buonasera. Allora, lei è un grande esperto anche di formazione, di gestione di quelle che si chiamano, con un termine che a me fa un po' ribrezzo, risorse umane, come sì, se ci fossero anche le risorse disumane. Ma io vorrei capire, in un periodo di crisi, di difficoltà, di mare mosso, di mare in tempesta, ma non dovrebbe essere proprio in questi periodi che il merito, la bravura, al di là del colore, del passaporto, del dialetto, della lingua, diventa la chiave di volta? Cioè, io sono un'azienda che sta navigando in un mare in tempesta, ho bisogno dei marinai migliori, non mi interessa che siano marinai britannici, americani, italiani, o no? Ma no, dunque, quando le crisi si fanno molto dure, in realtà la razionalità rischia di avere la peggio, nel senso che cresce la paura, e la paura fa ragionare di pancia, quindi quello che in qualche modo traccia la rotta sono sentimenti ambivalenti, ma soprattutto sentimenti messi in difficoltà dall'incertezza che si va ad affrontare. E in queste condizioni il merito non è tanto più un valore, nel senso che ciò che vale in queste condizioni è che il gruppo faccia perno, si riconcentri, ritrovi il suo centro di gravità, tornano a essere importanti e determinanti gli uomini fedeli, quelli, come dire, che in qualche modo garantiscono il fatto che anche nella cattiva sorte, tutto sommato, su di loro si può contare. Quindi il merito diventa un po' più difficoltoso da perché la razionalità tende a sparire, la paura sposta i confini proprio della razionalità. È un po' paradossale quello che lei ci sta ricordando, però, direttore Celli, perché insomma, proprio nel momento di difficoltà in cui il gioco si fa duro, uno dovrebbe essere razionale e puntare sul merito. Insomma, mi ricordo un po', adesso non posso essere troppo volgare, ma l'atteggiamento di quel marito cornuto che prendeva una decisione un po' autolesionista. Ecco. Allora, uno è già in difficoltà e cosa fa? Manda via non quelli che lavorano peggio, ma quelli che non hanno, diciamo, la nazionalità, il passaporto, magari si tiene uno poco bravo, basta che sia inglese, italiano, americano, a seconda di dove uno opera. Non è un po' autolesionista come atteggiamento? Ma nel medio e lungo periodo è certamente autolesionista. Il problema reale è che le crisi tendono a concentrarsi sul presente, nel senso che fanno convergere quasi tutte le forze alla soluzione del momento presente, come se una soluzione del momento presente fosse quella che in ogni caso poi ha la possibilità di uscire fuori. In realtà dalle crisi si esce lavorando sul medio-lungo termine, e l'atteggiamento di lavorare tutto sul presente può essere addirittura controproducente. Cioè, non si può pensare che, siccome io faccio efficienza adesso, l'efficienza comunque mi consentirà di sopravvivere alla crisi. L'efficienza da sola non basta, certamente ci vuole efficienza, ma l'efficienza da sola non basta. Se io mi taglio le risorse per il medio e lungo periodo, in ogni caso non innoverò. Senza innovazione da crisi come questa non si uscirà con ogni probabilità, e quindi è molto più facile che tagliando e facendo efficienza nel presente io in realtà mi precostituisca le condizioni per non uscire dalla crisi, non per uscire. Bisognerebbe ragionare in maniera diversa, cioè bisognerebbe avere una virtù che è molto poco presente, certamente in generale nel nostro paese, ma nei momenti di crisi soprattutto viene a mancare, che è la lungimiranza, cioè la capacità di guardare un pochino lontano, di vedere quali sono gli effetti ritardati di certe decisioni che si prendono nel presente, non semplicemente gli effetti immediati, e quindi la capacità di investire nei momenti in cui in realtà tutto ci porterebbe a tagliare. Questa è una delle variabili che bisognerebbe prendere in considerazione. La seconda variabile che da prendere in considerazione è che in ogni caso la possibilità di restituire fiducia al mercato e quindi fiducia alle regole, perché questa è una crisi, soprattutto una crisi di fiducia, deriva più dalla capacità di stabilire rapporti, come dire, cooperativi tra le persone, in alto e in basso della scala gerarchica, in alto e in basso nelle organizzazioni, nelle istituzioni, eccetera, eccetera, e quindi capacità, come dire, di stabilire nuovi legami solidali, perché la fiducia nasce dalla cooperazione ed è stata distrutta quando l'egoismo eccessivo, soprattutto in alcuni settori, ha distrutto ogni legame cooperativo e ogni interesse per il bene comune. Questo punto mi interessa particolarmente, le chiedo qualche minuto di pazienza perché ne parleremo dopo il meteo, perché in realtà abbiamo anche esempi sempre di reazioni, se vogliamo, emotive, di pancia, ma che vanno in un'altra direzione, cioè quella che adesso lei ricordava, di maggiore solidarietà, di far sentire i dipendenti anche vicini. Mi riferisco al caso Luxottica, ma non solo. Ne parliamo dopo il meteo. A chi scrive al 349-238-6666, una risposta brevissima. Attenzione, è ovvio che la politica cavalchi questi sentimenti di pancia. Meno logico che lo facciano i manager o gli amministratori delegati o i proprietari di impresa. Cioè, noi a questi ci stiamo riferendo, che il politico locale decida che è giusto difendere la pancia degli elettori mi sembra quasi scontato, ma infatti il politico fa il politico, il manager dovrebbe fare il manager e non confondere i due ruoli. ...17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere il primo tema di approfondimento, quando dal protezionismo delle o sulle merci si passa al protezionismo sui cervelli, sui passaporti. Con noi vi ricordo in collegamento il direttore generale della LUIS, dell'Università LUIS di Roma, Pierluigi Celli. Esiste una reazione di pancia, Celli, però virtuosa? Citavo il caso della Luxottica che ha detto, beh, in sostanza diamo delle agevolazioni ai nostri dipendenti in modo che senza dare aumenti in busta paga che poi vengono tassati tu possa avere un insieme di servizi sociali, di welfare, anche andare a fare la spesa, che ti mantengano o ti aiutino a mantenere il potere d'acquisto. Ma io credo che la soluzione della Luxottica sia una soluzione creativa, geniale e nello stesso tempo applicabile anche in altri contesti. Cioè, basta pensarci alle volte, basta porsi il problema e capire, come dicevo prima, che in fondo, trovando legami di solidarietà e quindi cooperativi fra tutti, con ogni probabilità si ottiene una maggiore identificazione dei dipendenti con l'impresa, una motivazione maggiore e quindi anche una produttività maggiore, che poi in qualche modo diventa una forma di egoismo virtuoso da parte del vertice aziendale. Allora rispondo, anzi la faccio rispondere a un paio di osservazioni che sono arrivate con le decine di sms che sto guardando. La prima le raggruppo per ordine. In realtà state sbagliando tema, o stiamo sbagliando tema, perché a essere licenziati saranno solo i lavoratori stranieri, o a essere preferiti saranno solo i lavoratori italiani di fascia bassa, cioè nessuno va a rinunciare a un ingegnere o a un grande manager, anche se indiano oppure tedesco o italiano. Il problema è laddove non c'è tanto merito e c'è un basso stipendio. Io non sono d'accordo, ma vorrei sentire lei. Ma in realtà, se andiamo a vedere chi viene messo in cassa integrazione, non mi pare che siano solo i lavoratori di fascia bassa. Certo, i lavoratori di fascia bassa soffrono più di altri, ma la cassa integrazione comincia a interessare anche i colletti bianchi, anche i tecnici e quindi anche personale, come dire, pregiato da questo punto di vista, soprattutto in condizioni, come dire, di difficoltà crescente nello scegliere. Quindi dico, bisognerebbe scegliere in base al merito, in base ai risultati che si danno. Molto spesso si sceglie proprio in termini di chiusura a riccio, quindi uno fa lavora a testuggine, e a lavorare a testuggine molto spesso non è il merito quello che serve, servono altre cose, altre competenze. Secondo tipo di domanda, devo dire molto sottile, che aprirebbe forse anche lo spunto per un'altra puntata. E il ragionamento è sempre europeo, non è italiano. I casi che abbiamo citato sono in stragrande maggioranza tedeschi, inglesi, americani. In Italia ancora si vede per fortuna poco. Nel momento in cui la crisi è così pesante e lo Stato va a salvare in non aziende, interi blocchi e settori industriali, bancario, automobilistico e quant'altro, è chiaro che gli imprenditori e i manager diventano più sensibili ai bisogni della politica. La trovo molto sottile come osservazione. Quindi, se la politica vuoi che si chiami sede U in Baviera, vuoi che si chiami Partito Conservatore in Gran Bretagna, la Lega in alcune parti del paese, decide che quello è un tema politico, anche il mondo dell'impresa è più sensibile alle esigenze della politica. Ma questo è un pericolo reale, è un pericolo reale. Nella realtà, come dire, uscire dalla crisi, o tentare di uscire dalla crisi, o tentare in qualche modo di attenuare la crisi, rimettendo in mano alla politica molte delle decisioni, significa con ogni probabilità poi dopo essere condizionati nella politica anche nelle scelte che si fanno e nelle scelte che si fanno sulle persone. Questo è indubitabile. Cioè, un pericolo reale di questa crisi è di tornare indietro, e non di andare avanti, di tornare indietro con un modello per cui la politica diventa un po' il dominus anche dell'economia e quindi detta le sue regole, che sono regole di appartenenza più che ancora di competenza. E quindi ancora una volta il merito, che è una delle variabili politicamente assolutamente debolissime, è quello che poi verrà in qualche modo a patire. Sì, direttore Celi, per dirla tutta, in questo caso la finanza sta dimostrando di essere una cosa troppo seria per essere lasciata ai banchieri a livello mondiale, per cui è chiaro che la politica poi debba correre in soccorso. No, non c'è dubbio, ma se è una cosa troppo seria per essere lasciata ai banchieri, non si capisce perché i banchieri vengono lasciati al loro posto. E anche questo è vero, ne abbiamo parlato. Per quello che riguarda l'America non ho nulla da controreplicare. Grazie al direttore generale dell'Università Luiss di Roma, Pierluigi Celli. Dal ragionamento sui protezionismo dei cervelli o delle braccia passiamo invece all'andamento della borsa oggi. 349-238-6666, comunque il numero per i vostri sms. Buona in alcuni casi la giornata, piatta nella maggior parte dei casi comunque oggi la borsa. Parigi chiude invariata, Francoforte più 0,4, Londra invariata, l'America guadagna 0,5% sul Dow Jones, Nasdaq più 1,20, S&P MIB invariato, MIBTEL più 0,15%, molto bene in pregiro più 5,3, Parmalat più 4%, Tenaris più 3,3, Geox più 3,1 come Autogrill, il 2,5 lo guadagna Terna, il 2,2 Mondadori, l'1,90 è il rialzo di Atlantia e di Saipem. Chi perde oggi invece in borsa? Beh, alcuni titoli, ed in particolar modo Fondiaria meno 3,60, Monte dei Paschi meno 2,90, Fastweb meno 2,30, Buzionice meno 1,7, Fiat meno 1,6, Unicredit meno 1,5, Alleanza meno 1,4. L'1,2% lo perdono sia Telecom che UbiBank, l'1% è il caro d'Intesa e Unipol. Euro a quota 1,28, Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Banche e assicurazioni oggi un po' sotto pressione, soprattutto Fondiaria e Monte dei Paschi. Le banche alla fine sono state quelle che hanno un po' frenato i listini, che nell'ultima ora invece hanno messo a segno un recupero consistente. Diciamo che sul fronte bancario certamente le indicazioni arrivate da questa mattina dalla Svizzera, in particolare da Swiss Re, non hanno favorito un buon andamento dei titoli lungo tutta la giornata. Swiss Re ha annunciato un aumento di capitale da 5 miliardi di franchi, oltre che ad annunciare appunto un allarme sui conti del 2008, anche se avverrà in aiuto dell'istituto Warren Buffett, con un'iniezione da 3 miliardi di franchi. Questo ha portato le assicurazioni ad essere sottotono per tutto il giorno, Fondiari Assai in particolare, anche Generali ha sofferto, anche se il recupero finale l'ha piuttosto premiata, ha chiuso in declino dello 0,4%. Allora, questo per quello che riguarda banche e assicurazioni, e quindi il caso Swiss Re, da noi Fondiaria e anche un po' le Generali, che però hanno contenuto il calo. Veniamo ad altri titoli. Buzionicem, dopo i rialzi di queste sedute, -1,7%, Fiat -1,6%, ieri c'era stato un grosso rimbalzo. Tra chi ha guadagnato invece oggi, in primo luogo Impregilo, +5,3%. Ha brillato per tutta la seduta, diciamo che le notizie positive arrivano dal Medio Oriente, dove il gruppo si è prequalificato per una gara per la realizzazione di un'autostrada che collegherà Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar. È una commessa consistente del valore di 2,7 miliardi di dollari e, diciamo così, l'avanzamento del gruppo in questa asta per questa commessa ha riacceso i riflettori sul titolo. Non è stato l'unico titolo ad andare molto bene, è continuato il recupero di Parmalat, che si conferma la migliore dall'inizio dell'anno, ha guadagnato quasi oltre il 18% dall'inizio dell'anno. Su Parmalat si torna a ricoprirsi e tornano ancora una volta le indiscrezioni, ne abbiamo sentite molte nelle ultime settimane, l'interesse del gruppo Granarolo, l'interesse del gruppo Ferrero per l'azienda emiliana, allo stesso momento i movimenti interni con i fondi azionisti in movimento, soprattutto per cercare delle figure di riferimento all'interno del CDA che appunto rappresentino meglio i fondi azionisti. Su tutto questo Parmalat ha messo in segno oggi un bel +4%. Altri titoli dopo le informazioni per chi è in viaggio. Una risposta però la do sul tema con cui abbiamo aperto, il protezionismo dei cervelli, delle braccia, che rasenta la xenofobia. Ricordo che i casi non sono italiani ma sono americani, tedeschi e inglesi, quindi non buttatela sempre in chiave italiana. Un ascoltatore scrive: che cosa diresti se licenziassero te e Barisoni per assumere un altro lavoratore europeo? Allora, due cose. In primo luogo, non abbiamo ragionato su licenziamenti, cioè licenziare italiani o licenziare inglese per mettere altri lavoratori al loro posto. Si è detto che c'è un principio molto molto pericoloso quando tu vedi l'America o la Gran Bretagna o la Germania dire: in primo luogo licenziamo i non tedeschi oppure i non americani, i non inglesi, poi casomai gli altri, non si tratta di sostituirli. Dopodiché, se la domanda fosse se licenziassero te Barisoni e tenessero un altro conduttore magari tedesco, beh, sei più bravo di me, fa più ascolto, fa bene alla radio l'ascolto, e quindi sarebbero contenti anche alcuni tecnici che sorridono. :17:48, bentornati in diretta con Focus Economia, ecco il nuovo conduttore tedesco del programma, allora lasciateci scherzare. Andrea Fontana, gli altri titoli, per quello che riguarda i titoli legati alle costruzioni, male Buzionicem e Impregilo. Cioè Buzionicem male, guadagni invece su Impregilo. Sì, per quanto riguarda Buzzi sono attesi i conti che sono in programma domani, già ci sono state indicazioni non troppo positive dalla controllata tedesca ad inizio settimana e per questo il titolo appunto ha perso l'1,7%. Come detto, nel settore costruzioni Impregilo brillante in vista di questa gara in cui il gruppo procede in Medio Oriente, in particolare in Catania. Nel settore diciamo costruzioni e oil, attenzione per quanto riguarda, insomma, più che costruzioni, appunto attrezzature, infrastrutture, per il comparto oil, molta attenzione su Tenaris, che ha guadagnato il 3,3%. Le notizie positive su cui il mercato scommette arrivano questa volta dall'Argentina. Ci sono ipotesi che il governo di Cristina Kirchner Kirchner possa introdurre delle misure protezionistiche per il settore dell'acciaio, questo potrebbe favorire la controllata di Tenaris Siderar, che anzi ultimamente sembrava indirizzata a ridurre i propri investimenti, e invece queste indiscrezioni, se confermate, saranno molto positive per Tenaris in quel paese, in quell'area geografica, e per questo il mercato ci ha scommesso oggi. Atlantia più 1,91%, era un po' fermo il titolo ultimamente, mentre Terna si è preso oggi un altro 2,4% di rialzo, Autogrill un altro 3%, Atlantia. Sì, per quanto riguarda Atlantia, oggi una ricopertura sul titolo che è andata poi migliorando con il finale brillante delle borse, hanno influito anche le parole dell'amministratore delegato Castellucci, che ha sottolineato come il gruppo abbia investito tra gli 1,2 e gli 1,3 miliardi di euro nel 2008 e prevede anche un aumento degli investimenti nel 2009. Non solo, Castellucci ha detto che il gruppo ha un debito contenuto e anche dei margini di manovra, anche se non eccessivi, per nuove acquisizioni, e questo ha messo di buon umore il mercato su questo titolo. Il rialzo di oggi, lo ricordavi tu, quasi il 2%. Ancora bene, Parmalat anche oggi, come si ricordava, il titolo va bene. Tra i migliori e peggiori in assoluto invece IT Holding, ormai questa è un otto volante, meno 18% oggi. Gemina sulle risparmi non convertibili più 15%, Cell Therapeutics più 13%, anche Bastoggi oggi è in flessione, meno 8,4%. Bene invece tra i titoli il Santander più 6,5%. IT Holding? Beh, per quanto riguarda IT Holding abbiamo visto la forte volatilità sul titolo, anche perché è veramente in attesa, insomma, l'ingresso nel capitale del processo di ristrutturazione che dovrebbe arrivare con l'ingresso appunto di un fondo di private equity, Kingsbridge. Questa è la scommessa del mercato, anche se appunto abbiamo visto come ha giorni di forte rialzo, perché sembrava imminente la conclusione del processo di ristrutturazione, insomma l'avvio del processo di ristrutturazione, per la verità, il mercato poi prenda beneficio in maniera immediata, e questo spiega la forte volatilità su un titolo, peraltro a prezzi molto sottili, visto che un'azione vale 0,176 euro. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, poi darò altre risposte perché vedo che chiaramente il tema ha sollevato, ma ben venga, anche opinioni molto diverse. Mi riferisco al tema come scegliere, se così si può dire, chi licenziare, se sulla base del passaporto, sulla base del merito, e quindi protezionismo nelle braccia e nei cervelli. Però restiamo invece in tema di previsioni di mercato, perché la nostra Deborah Rosciani ha intervistato il responsabile investimenti, il vicepresidente di BlackRock, che è una delle prime società al mondo di gestione, pensate che ha un portafoglio di 1.360 miliardi di dollari, vuol dire che gestisce partecipazioni per 1.360 miliardi, praticamente il PIL italiano quanto a partecipazioni. E all'inizio di ogni anno Bob Dole fornisce un insieme di previsioni di medio termine sull'andamento dell'economia globale, al mercato azionario. Interessante appunto sentirlo, visto che loro sono uno dei più grossi soggetti nel gestire il denaro. Allora ascoltiamo che cosa prevede in primo luogo per il settore bancario nell'intervista di Deborah Rosciani. The banking sector remains in a difficult situation. Il settore bancario sta vivendo una situazione difficile e non credo che si risolverà in fretta. Il comparto in molti paesi sta subendo interventi da parte dei governi e per gli investitori è molto difficile poter stabilire quale sarà il futuro di queste banche. Finché il sistema economico sarà debole, e lo sarà ancora per diverso tempo, continueranno ad emergere problemi di credito. Quindi ritengo che il settore bancario sia ancora lontano dall'uscire dalla crisi. Per vedere effetti e miglioramenti sul sistema dovremmo prima vederne sull'economia reale. Quali sono le sue considerazioni sul piano per rilanciare l'economia varato dal presidente Obama? Well, the plan as it now is taking shape is no, better than no plan at all, as the economy needs the stimulus provided. Il piano del presidente Obama per supportare l'economia sta prendendo forma ora ed è meglio che niente, anche se i contenuti potrebbero essere ulteriormente potenziati. Bisogna ricordare che nella prima parte del mese di gennaio c'è stata una fase in cui sembrava che il piano potesse includere tagli significativi alle tasse e incentivi alle aziende per favorire gli investimenti. Molti di questi aspetti sono scomparsi dal piano, che migliorerà comunque l'economia anche se l'impatto sarà più limitato. Quindi sicuramente il piano è meglio di niente, ma poteva essere migliore. Alcune banche americane per affrontare la crisi in atto sono state indirizzate verso l'aggregazione e adesso hanno bisogno di essere salvate attraverso gli interventi del Congresso e della Banca Centrale. Quanto potrà durare tutto questo? I think that the situation of crisis for the banks and the need for. Credo che la situazione di crisi in cui versano le banche e l'intervento in esse da parte del governo durerà ancora. Probabilmente l'amministrazione del governo Obama guarderà a quanto fatto altrove. Fino ad ora si è rivolta l'attenzione ad una banca per volta. Solo il tempo ci dirà se il piano si trasformerà in un far confluire i cattivi asset in un organismo posseduto dal governo. Credo comunque che le nubi sul sistema bancario dureranno ancora per i prossimi mesi. Come vede la situazione economica in Europa? Our view is the economy in Europe struggles as well. Anche in Europa la situazione economica non è semplice. La differenza tra Europa e Stati Uniti è che questi ultimi sono stati più rapidi nell'abbassare i tassi di interesse, più rapidi a varare un piano di stimolo fiscale, più rapidi a individuare la grave situazione di debito. L'Europa ha avuto più problemi nel comprendere e gestire il problema. Ecco perché le difficoltà dureranno di più in Europa rispetto agli Stati Uniti. Quali sono le sue previsioni complessive per l'anno in corso? Le mie previsioni si basano sulla convinzione che c'è una battaglia tra tensioni deflattive come il cattivo debito, un'economia povera e scarse entrate da un lato, e dall'altro una forte pressione inflattiva data da politiche monetarie e fiscali aggressive e stimoli provenienti dal declino del prezzo del greggio. Queste due forze influenzeranno a turno i mercati generando rally e aggiustamenti nel corso del 2009. Verso la fine dell'anno l'inflazione crescerà e prevarrà sulla deflazione, questo consentirà ai mercati di fare meglio. Le nostre previsioni si basano anche sulla speranza che i mercati azionari rialzeranno la testa e che l'intero sistema supererà questa fase di bassa crescita per riprendersi alla fine dell'anno. Quindi aspettiamo fine anno per il responsabile investimenti di BlackRock le risposte alle vostre domande. Allora, è probabile che se io perdessi il posto a favore di un altro mio collega straniero mi arrabbierei moltissimo. È probabile, come alcuni di voi scrivono, che non avrei un'altra occupazione perché non so fare nulla, ma il principio resta. Licenziare sulla base del passaporto, della cultura, dell'etnia può essere un principio politicamente comprensibile, ma sicuramente non un principio comprensibile da un punto di vista manageriale. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo continuare col tema di apertura, ossia oltre al protezionismo delle merci si sta o sta prendendo piede un protezionismo dei passaporti, dei cervelli, delle braccia, e ripeto, i casi più eclatanti non sono in Italia, sono in America, in Gran Bretagna e anche in Germania. Altri temi di questa giornata economico-finanziaria: il dato sull'inflazione che segna una crescita dei prezzi al consumo molto bassa, e poi la decisione della Banca Centrale Europea di lasciare i tassi invariati ma non chiudendo a possibilità di ulteriori ribassi da un lato, e addirittura, hanno detto Trichet, beh, i tassi zero in questo momento non sono un'opzione. 349-238-6666 per gli MS, SMS, scusatemi. Partiamo con il primo tema, ossia il dato dell'inflazione diffuso oggi dall'Istat. Ne nel mese di gennaio i prezzi al consumo sono cresciuti in Italia dell'1,6% contro il 2,2% di dicembre e un'inflazione così bassa non si vedeva dall'agosto del 2007. Addirittura su base mensile, cioè rispetto a dicembre, vi è stato un calo, meno 0,1% nella rilevazione dell'Istat, in cui è cambiato anche il paniere dei beni, ossia i beni utilizzati dall'Istat per calcolare come si muovono i prezzi. Ci racconta tutto questa scheda. Inflazione ancora infrenata in questo inizio d'anno, con il calo da imputarsi principalmente a benzina e gasolio, meno 18% sull'anno prima. E se viaggiare su strada è costato meno, nei cieli i prezzi sono rimasti ad alta quota, con le tariffe aeree salite di oltre il 9% in un anno. Ma sempre in tema di tariffe, aumenti sono arrivati da quelle di elettricità e gas, che pur scendendo rispetto a dicembre, sono invece salite rispetto all'anno prima. Più 4% l'aumento di quelle elettriche e più 12% per le tariffe del gas. Notizie migliori arrivano dal carrello della spesa, dove è rallentato il ritmo nella crescita dei prezzi. Non tanto nella pasta, che ha segnato più 25% sull'anno prima, quanto per il pane, carne, pesce, uova e formaggi, che hanno registrato aumenti compresi tra il 3 e il 4%. Prezzi addirittura in calo per le voci comunicazioni, alberghi e computer. Ma le novità non hanno riguardato solo l'andamento dei prezzi, ma anche la composizione del cosiddetto paniere dell'Istat, usato per calcolare il caro vita degli italiani. I nuovi ingressi si chiamano pasta base per pizza e confezioni di mais. Ma anche chiavetta USB, film in DVD, tariffe per la DSL e computer portatili. In proporzione aumenta poi il peso dei prodotti legati ad abbigliamento, abitazioni, mobili, comunicazioni e ristorazione. Infine, restano 84 i comuni su cui viene stimato l'indice dei prezzi al consumo, ma esce Salerno ed entra Teramo. E su quest'ultimo aspetto, ossia come mai così pochi ingressi, solo 4 prodotti nuovi nel paniere dell'Istat, paniere così diciamo criticato, che ha portato l'Istat, lo ricordo, a sviluppare un nuovo indice sull'inflazione, quello dei beni a maggior frequenza, che dà un'inflazione ben più alta di quella generale, intorno al 4,5%, sentiamo Roberto Monducci, direttore centrale dell'Istat, intervistato dalla nostra Paola Nania. Il fatto che gli ingressi siano limitati dipende dalla considerazione che il paniere è attualmente assolutamente completo, quindi già abbiamo oltre 1100 prodotti che fanno parte del paniere, quindi questi ingressi in pratica fanno riferimento a esigenze di copertura di alcuni settori come quello alimentare o quello high tech, che probabilmente meritavano un'attenzione maggiore. Dunque un'integrazione. Sì, un'integrazione. Poi in altri settori sempre legati a, diciamo, alla tecnologia abbiamo avuto, per esempio nel settore dei computer, l'introduzione del netbook, che è un prodotto diciamo a costo limitato, si sta diffondendo molto e serve a navigare essenzialmente, quindi è un prodotto che sta diventando di largo consumo. Perché la chiavetta USB, per esempio, è entrata adesso nel paniere, non 2 anni fa? Beh, perché noi quando facciamo queste operazioni di ingresso nel paniere verifichiamo il grado di diffusione e anche la stabilità del mercato, perché si tratta di prodotti che prima di essere considerati come molto rappresentativi, perché il paniere fa riferimento a prodotti di largo consumo, noi dobbiamo considerare i comportamenti medi dei consumatori, quindi dobbiamo fare riferimento a prodotti che si affermano sul mercato in qualche modo. La chiavetta USB adesso ha assunto, diciamo, un segmento di mercato che si è stabilizzato, è diventato ormai, fa parte della vita quotidiana dei consumatori, e quindi ora è stato ritenuto opportuno di inserirla. Quindi continua il calo nella crescita dei prezzi al consumo, non c'è un segno meno, c'è un segno più 1,6% nell'inflazione, con un segno meno invece mese su mese, e vedremo se poi è in atto un processo che gli economisti chiamano deflattivo. Ricordo a chi dice è buona notizia. Sì, è una buona notizia, sicuramente la deflazione invece non è una buona notizia, perché quando le attese sono per prezzi in calo anche a livello nominale, questo comporta poi nel medio termine un rinvio dell'acquisto, un rinvio delle scelte, quindi crea una spirale, diciamo, non bella per quello che riguarda la domanda interna. Di nuovo in diretta, ultimo tema del programma di oggi, la Banca Centrale Europea che si è riunita a Francoforte, come sempre a inizio mese c'è anche la conferenza stampa. E allora, ha detto il presidente Jean-Claude Trichet, nel motivare perché i tassi di interesse restino al 2% in Europa, nell'area euro chiaramente, che tassi di interesse a questo livello, ha ricordato Trichet, sono al minimo storico dal 5 giugno del 2003 per quello che riguarda i tassi, ma il differenziale tra noi e l'America resta sul 2%, in America praticamente il denaro non costa più niente, è allo 0,25%, e ha detto però Trichet le aspettative dei prezzi, le aspettative sull'inflazione sono in linea con una stabilità dei prezzi. Ci sarà un prolungato rallentamento, la crescita nel quarto trimestre sarà negativa, poi ci arriviamo, ma insomma per adesso i tassi vanno bene così, anche se vedremo poi che cosa fare, il 2% non è la soglia minima e addirittura ha detto i tassi zero al momento non sono appropriati. At today's meeting, the Governing Council decided to leave the key ECB interest rates unchanged. Alla riunione odierna abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. I dati sull'economia confermano per l'area euro e i suoi principali partner commerciali un prolungato e significativo rallentamento economico. Continuiamo ad attenderci un livello di inflazione in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi nel medio termine. Continueremo a mantenere le attese di inflazione ancorate al nostro obiettivo, ossia inferiore ma vicino al 2% nel medio termine. Tassi di interesse allo 0%. Non sono qualcosa che al momento consideriamo appropriato. Per ciò che riguarda l'uso di misure non standard, attualmente ci troviamo in questo contesto. Ho già detto che non escludiamo nulla, non siamo prevenuti, e non escludiamo nulla circa il ricorso a misure non standard. La soglia del 2% per i tassi non è la soglia minima. Esamineremo la situazione al prossimo Consiglio a marzo. Non escludo che potremo tagliare il costo del denaro al prossimo appuntamento, ma analizzeremo cosa fare prendendo in considerazione tutti gli elementi a disposizione. Così il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, non male la battuta di un ascoltatore che è riferito all'Istat e riferendosi all'Istat e all'ingresso della chiavetta USB nel paniere ha detto ah meno male stasera cucino chiavette USB impanate. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Partiamo dalla cosa che più mi ha sorpreso, sentire Trichet dire i tassi zero al momento non sono appropriati, sapendo che ogni parola viene molto pesata quando espressa dal Presidente della Banca Centrale Europea, cosa vuol dire? Che potrebbe essere un'opzione? Ma ho l'impressione che per il momento la Banca Centrale ha come scenario principale un forte processo di disinflazione, ma non ha in mente deflazione e quindi in assenza di deflazione la banca non crede di dover ridurre i tassi di interesse allo zero. Ho l'impressione che il suo obiettivo in questo momento è un tasso di interesse fra l'1 e l'1,5% più o meno a occhio e croce. Però naturalmente Trichet non ha voglia di dimostrarsi impreparato e di essere colto in fallo e quindi evidentemente la situazione è molto incerta e ha preferito oggi dire in questo momento questo è il nostro scenario. Poi se lo scenario dovesse cambiare e la deflazione dovesse diventare una realtà, beh, a quel punto la banca dovrebbe assolutamente portare i tassi di interesse molto bassi. Allora, dico chi scrive, non sparate sulla Croce Rossa, lo abbiamo detto mille volte, la Banca Centrale Europea, Trichet, ha preso una cantonata a luglio del 2008 quando ha alzato i tassi, convinta che il problema fosse l'inflazione. Però ormai l'abbiamo detto, diamo anche avanti. La differenza tra deflazione e un'inflazione in rallentamento, non vorrei, diciamo, che sembrasse solo un, così, un distinguo terminologico. Noi siamo in una fase di disinflazione, in altre parole l'inflazione è in forte calo, era intorno al 4% nell'estate del 2008, nel gennaio di quest'anno era l'1,1%. I prezzi continuano ad aumentare, ma di molto meno, fondamentalmente questa è inflazione e disinflazione. Invece deflazione è quando i prezzi calano, in altre parole quando i beni che vengono acquistati hanno un prezzo inferiore oggi di quello che era 2 mesi fa, 3 mesi fa, 6 mesi fa. La deflazione è pericolosa perché tendenzialmente si associa la deflazione a una depressione, in altre parole a un calo tale dell'attività economica per cui le aziende, pur di vendere, riducono i prezzi perché altrimenti non riescono a vendere e si crea una specie di circolo vizioso perché le persone, le famiglie, i consumatori, ma anche le imprese tendono a pensare che beni di investimento o comunque beni durevoli non acquistano beni durevoli oggi perché pensano che domani i prezzi saranno scesi e quello stesso bene durevole costerà meno, col risultato che si crea, come dicevo prima, un circolo vizioso dove le aziende riducono i prezzi ma le famiglie non consumano e quindi la recessione diventa depressione. Allora, accolgo come battuta chiaramente sull'invito alla BCE a ridurre il personale francese a meno di una unità, va bene. A chi chiede che Jérôme Kerviel prenda il posto di Trichet, e come battuta ci siamo, però restiamo sulle cose serie. Beda Romano, oggi la banca centrale inglese, la Bank of England, che già aveva portato i tassi al livello più basso da quando esiste, dal 1694, da quando fu fondata da Re William III, e li ha ulteriormente ritoccati a ribasso, dall'1,5% all'1%. Per la cronaca anche la Repubblica Ceca ha tagliato di mezzo punto percentuale i tassi di interesse. Chiedo a Francoforte, nell'edificio della Banca Centrale Europea, come queste mosse delle altre banche vengono commentate. L'America ormai è arrivata a tassi zero, 0,25 significa zero, e la Gran Bretagna sta imboccando quella strada con una certa rapidità. Si sente una pressione o si ritiene che quelle economie, compresa quella britannica, abbiano problemi diversi da quelli dell'area euro e che quindi non si è giustificata una misura così forte? Beh sì, questo è il ragionamento evidentemente, ma devo dire è difficile dar torto alla Banca Centrale Europea in questo frangente. L'Inghilterra sta attraversando una situazione assai più grave di quella della zona euro, al di là del forte rallentamento economico, il paese è indebitato nei confronti dell'estero, aveva un sistema finanziario molto più importante, molto più grosso di quanto probabilmente non ce ne fosse bisogno, a questo si è aggiunto una bolla immobiliare che è scoppiata, le famiglie sono indebitate, insomma tutte situazioni che la zona euro nel suo complesso non ha. Certo, vi sono regioni all'interno della zona euro dove vi sono situazioni simili, paese indebitato, famiglie indebitate, bolla immobiliare scoppiata, recessione economica, penso alla Spagna e anche all'Irlanda, ma nel suo complesso la zona euro non ha questo problema. Certo, la banca deve decidere il costo del denaro, il livello del costo del denaro a livello di zona euro e quindi ha questa politica di cautela sul fronte della politica monetaria. Alcuni paesi probabilmente della zona euro vorrebbero invece a questo punto avere dei tassi di interesse più bassi, ma appartengono a un'unione monetaria e quindi dovranno probabilmente aspettare. Un'ultima domanda riguarda un appello che Trichet aveva lanciato e mi riferisco alle banche europee di adeguarsi a quelle che sono le mosse della banca centrale, ossia se noi abbassiamo i tassi, anche voi questi tassi praticati alla clientela, imprese o famiglie dovete abbassarli. È tornato sul tema Trichet o lo ritiene chiuso? No, credo che Trichet questo tema lo ha assolutamente in mente. All'inizio della nostra conversazione abbiamo raccontato che la banca sta valutando che cosa fare per cercare di dare una scossa definitiva al mercato interbancario. Il mercato interbancario ha in parte assorbito il calo del costo del denaro ufficiale, ma continua ad esserci una certa sfiducia tra banche e soprattutto il mercato è più segmentato di quanto non fosse prima. In altre parole, le banche si danno soldi a prestito, ma su base nazionale più che su base europea. Allora, la BCE è preoccupata di questo sviluppo e sta pensando a come dare una scossa definitiva al mercato interbancario, e una delle possibilità è quella di acquistare obbligazioni private e obbligazioni pubbliche sul mercato direttamente per aiutare le banche e le imprese ad avere liquidità. Per il momento questa decisione non è stata ancora presa, ma è probabile che venga presa nelle prossime settimane. E sarebbe una decisione altrettanto importante quanto, non so se allo stesso livello, ma sicuramente vicina alla decisione sui tassi, perché poi quello che conta è l'effetto reale, quindi i tassi praticati a noi e alle imprese. Grazie anche a Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni gli auguro di una buona serata.